sabato pomeriggio verso le 5:30 praticamente ci telefonano i lavoratori interni all'aeroporto civile di Pisa e ci hanno comunicato che gli era stato indicato di andare a caricare un volo dicendo che era un volo di aiuti umanitari e poi invece quando sono arrivati al momento del carico hanno visto che si trattava invece di un carico di armi. Questi sono lavoratori dell'aeroporto civile di Pisa e il volo era all'interno dell'aeroporto civile. E i lavoratori si sono rifiutati di caricarlo e sono ritornati, insomma, nella struttura aeroportuale. Questi sono i fatti avvenuti. Come USB, noi siamo, voglio dire, contrari alla guerra, stiamo, voglio dire, portando, ci avevamo già fissata una manifestazione per sabato 19 all'aeroporto militare di Pisa, perché l'aeroporto di Pisa comunque è l'aeroporto da cui stanno partendo le armi. Chiaramente il concentramento della manifestazione è stato spostato davanti all'aeroporto civile ed è quindi sabato 19 alle ore 15, nel senso che noi comunque stiamo esprimendo in tutte le forme possibili la nostra contrarietà in generale, voglio dire, alla guerra e alla partecipazione da parte dell'Italia attraverso l'invio di armi al conflitto. In particolare, questa situazione ha ovviamente l'aggravante pesantissima dal nostro punto di vista dell'uso di una struttura civile e dell'uso della richiesta fatta a lavoratori appunto civili, dipendenti dell'azienda che gestisce l'aeroporto. È già successo, no? I lavoratori di Genova, del porto di Genova, i lavoratori del porto di Livorno, anch'essi dell'USB, tra l'altro, no? Nei mesi scorsi si sono rifiutati di caricare dei container che sapevano contenere armi, non erano ovviamente dirette in Ucraina, si trattava di altri conflitti, però è una cosa, voglio dire, assolutamente importante e significativa che un lavoratore appunto si rifiuti di essere partecipe di azioni di questo tipo. Ma ci sono poi delle ritorsioni da parte delle dirigenze quando i lavoratori si rifiutano, ad esempio, di caricare delle armi, di effettuare un carico? In questo caso, cioè, non ci possono essere, nel senso che vedi, quello lì non è compito mio, voglio dire, anche soltanto sul piano della sicurezza, il carico di armi implica tutta una serie di cose che non riguardano i carichi normali, quindi voglio dire, mi sta chiedendo, in questo caso no, perché chiaramente i lavoratori, soprattutto le strutture aeroportuali, hanno delle regole ferree, no, come anche quelli dei porti, però mi sta chiedendo di fare un lavoro che non solo non è il mio lavoro, ma è un lavoro, voglio dire, pericoloso, un lavoro, voglio dire, regolato appunto dal Ministero della Difesa e svolto dal personale militare. Ritorsioni al momento non ce ne sono state, ma non penso che assolutamente ci possano essere ritorsioni, non è che si sono rifiutati di fare qualcosa che era nei loro compiti all'ordine del giorno.